mia giornata noiosa è questa qua, tra la colazione, gli scontrini dei bar, cappuccino, brioche, malinconia, e i miei pensieri anche adesso da buttare via. Un altro giorno che passa, un altro me, purtroppo uguale a ieri, come se questo tempo tiranno mi girasse intorno fino a che io non riconosca più me. La mia giornata noiosa è questa qua, tra le macchine ferme e la quotidianità, aspettando una rondine che voli via, evitando il più possibile la pazzia. Nuvole lontane all'orizzonte, terre inesplorate dentro la mente, lampi di cenere nel cielo sereno, dopo una tempesta nasce l'arcobaleno che se ne va, e che se ne va, e che se ne va. Isole lontane sparse per l'oceano, tu mi stai accanto tra refoli di ventoi, costume bianco, la pelle già abbronzata, e forse non sei neanche fidanzata. Intanto cala la sera sul mare, questa notte io ti vengo a cercare, ragazza dolce che annebbi i miei pensieri, che mi fai dimenticare i miei problemi di ieri. Giornata noiosa è questa qua, tra l'ingratitudine e la vita che va, ma non sempre ci porta dove vogliamo, e molto spesso non ci aiuta nessuno. Lungo i viali di fango dell'esistenza, raramente nascono maggiorana e menta, si alza un canto io gioioso euforia, vesto questo tempo che scappa via, che mi scappa via. Isole lontane sparse per l'oceano, tu mi stai accanto tra refoli di vento, il costume bianco, la pelle già abbronzata, e forse non sei neanche fidanzata. Intanto cala la sera sul mare, questa notte io ti vengo a cercare, ragazza dolce che annebbi i miei pensieri, che mi fai dimenticare i miei problemi di ieri. Tempo che va, nel tempo che va, sulla nostra età intanto cala la sera sul mare, questa notte io ti vengo a cercare, ragazza dolce che annebbi i miei pensieri, che mi fai dimenticare i miei problemi di ieri. Nel tempo che va, tempo che va.